Radio Wombat. Radio Wombat 8 Hz. Benvenuti a 8 Hz qui su Radio Wombat. Stasera vi propongo una serata ad altissimo canone sperimentale. Vi dico subito, parlerò solo all'inizio della trasmissione e poi vi lascerò ascoltare un intero mix, ora vi spiego tutto. Si diceva sperimentalismo, sì lo so, la scorsa volta vi ho illuso con facendovi ascoltare della musica più rilassata pop strutturalmente, diciamo, e anche con nomi abbastanza conosciuti da tutti. Appunto non è il caso di questa sera e vi farò quindi a un certo punto ascolterete la radio in AM, l'1359, e direte: ma cosa cavolo sto ascoltando, ma cos'è, sono rumori, cos'è? No, è semplicemente una puntata di 8 Hz, di quella che a volte vi ho abituato ad ascoltare. Si diceva, vi lascerò andare un mix curato da Marco Marzuoli, che ve ne ho già parlato qualche puntata fa, pescarese di vicino Pescara, appunto della scuola di William Basischi, Tom Ascone, insomma quei tipi di loop e droni, diciamo. Questo mix è un mix di avant-garde italiana dal 70-80 che è uscito per la 901 Edition, ve lo dico in italiano se almeno capite meglio, e si può trovare sul Mix Cloud della 901 Edition, quindi potete guardare anche lì, insomma. L'indirizzo è www.mixcloud.com/901editions e si chiama M12, come un po' tutte le numerazioni dei mix di questa etichetta, che sono stati affidati a varie persone, personaggi del mondo della sperimentazione italiana, e ognuno fa dei mix su vari tipi di vari aspetti di sperimentazione, che possono essere dai giapponesi a qualsiasi altro tipo di provenienza, insomma. Lui si diceva solo sull'Italia, potete trovarci cose di Prima Materia, di Metro Stratos, scusate, Arturo Saltieri, il Telaio Magnetico, il famoso Franco Battiato, Riccardo Sinigaglia, Roberto Cacciapaglia e Francesco Messina, tra i vari. Poi ce ne sono anche altri che non vi sto a elencare, ma potrete trovare scritti nel podcast della puntata. Si diceva, parlando un po' dell'etichetta, la 901 Edition, è un'etichetta di Fabio Perletta, produttore e musicista attuale, che abruzzese pure lui, ha formato questa etichetta sulle ceneri di Farmacia 901, la sua label precedente, facendo uscire più di 30 album di, lui dice, close to silence, vicini al silenzio, insomma, roba da immergersi e provare a una sorta di riflessione, di meditazione, scavando proprio in profondità dei timpani e del cervello. Quindi a noi questa cosa ci piace molto su 8 Hz, diciamo. E Fabio Perletta, tra l'altro, ha prodotto tante cose, potete trovarle sul suo sito, sul sito della sua etichetta 901edition.com, editions.com, e da lì potete quindi trovare un po' di tutto, anche la sua bio, che è molto interessante. Ascoltatevi intanto questo bel mix, cose parecchio particolari, parecchio selezionate, diciamo. Vi ricordo, parlando un po' di Radio Wombat e della trasmissione in generale, che 8 Hz appunto l'ascoltate in diretta il giovedì alle 21.15 e in replica il venerdì alle 19.30 e sabato alle 14.30. Tra le nuove entrate di quest'anno ce n'è una ultimissima che si chiama Buongiorno Palestina. Vi leggo un po' quello che c'è scritto sul sito, che narra così: quello che sulla Palestina non vogliono che si sappia, date, interviste, rassegna stampa, recensioni, eventi, storia, fonti informative palestinesi, israeliane, internazionali e soprattutto notizie da chi è sul luogo o ne proviene. Quindi è roba molto particolare e molto difficile da trovare in altri tipi di fonti ufficiali e non, diciamo. Poi c'è l'Urlo dei Balcani, che è due giovedì al mese alle 18.30, storia, notizie, curiosità, reportage e tanto altro dai nostri vicini Balcani, a cui diamo voce attraverso questo insolito urlo. E poi vi ricordo anche il Container, che è uno spazio libero per riascoltare alcuni eventi registrati in città, a Firenze. Ci sono presentazioni libri, dibattiti, interviste, concerti, live vari, uno scatolone pieno di racconti. Fondamentalmente c'è stato ultimamente, potete trovarci un po' di documentazione sull'hack meeting delle ultime settimane che si è tenuto al Next Emerson a Firenze. Vi ricordo che ci sono dei canali che sono anche su i soliti social, vanno usati poco, come Facebook e Twitter, ma ovviamente cercatevi tutto sul sito di radiowombat.noblogs.org, e per dubbi, informazioni, proposte, recriminazioni ed elogi che ci fanno tanto bene, potete scrivere a postwombat@insiberia.net. Io vi lascio, ci sentiamo settimana prossima, vediamo cosa riesco a programmare per la prossima settimana, che fa parecchio caldo e ci avviamo verso le future repliche o le passate puntate di 8 Hertz. Buona serata a tutti, buon ascolto, ciao! Oh. Thank you. La notte scendeva, dissolvendo i contorni delle cose. Gli alberi non facevano più ombra e la natura si apprestava a cambiare il suo aspetto. Presto avrei dovuto partire e anche Cascas sarebbe tornato alla sua tana. Bisogna rientrare. Adesso la terra appartiene ad altri, ciascuno a suo tempo. Gli animali della notte stanno per uscire e prenderanno il nostro posto. Ascolta quegli scricchioli lassù nel bosco. È il tasso che comincia la sua ronda. Forse anche quel gran balordo d'un cinghiale arriverà fino al campo di patate, distruggendo tutto il suo passaggio. E l'amica talpa, che non vede più in là della punta del suo naso, avrà una gran paura e dovrà rifare tutte le sue gallerie. Per alcuni di noi, la notte è il tempo in cui si tengono gli occhi bene aperti, si fanno audaci sortite e si corrono innumerevoli pericoli. È anche il tempo dei ritmi ripetuti e dei canti monotoni. Presto, il grillo darà il segnale d'attacco e milioni di minuscoli archetti si metteranno in moto sotto le ali tese. No, senti Barbagianni che fa dall'alto della rupe. Pensa di farci paura. Ma dovrebbe pur sapere quell'alloco che nessuno l'ha mai preso sul serio. Guarda, anche i pipistrelli si sono svegliati. Hanno lasciato i loro buchi d'ombra e tracciano sul blu del cielo le loro curve piene di oscuri palpiti. La notte si avvicina. Buonasera. Cascas risalì lungo il tronco della quercia per raggiungere la sua tana. Il suo passo era leggero e la coda oscillava graziosamente al ritmo dei movimenti. Buonasera, Cascas. Ci dobbiamo lasciare. Devo tornare in mezzo agli uomini. Ma mi ricorderò di te. Sempre. Cercherò di non dimenticare che esistono altri sentieri nella mente degli uomini. Che la natura è sovrana. E forse è arrivato il momento di riconoscerne il potere. Noi uomini, e voi animali, e anche le piante, abbiamo insieme ricevuto il dono meraviglioso della vita. È detto che dobbiamo scambiarcela qualche volta, nutrendoci l'un l'altro, ma non dovrà mai essere sacrificata senza ragione, e neppure contrariata per il piacere del più forte. Cascas si era fermato e mi guardava con aria pensierosa. Lassù, vicino alla loro mamma, nel nido che abbiamo costruito, due scoiattolini stanno per addormentarsi. Non sanno ancora nulla della vita e tutto il loro sorride al sonno che sta per prendere. Se tutti gli scoiattoli e tutti gli animali e gli uomini pensassero che ovunque è possibile essere felici, che nei nidi, nelle case, nelle tane, ci sono mamme che vegliano e piccoli che giocano, e dove nasce l'amore tra gli uomini, come qui a ogni passo si schiudono i fiori, come sarebbe dolce il nostro sonno e come sarebbero teneri i sogni di noi tutti. Quando Cascas fu scomparso in mezzo ai rami, presi la via che scende al villaggio. Ecco, la storia è finita. Ti è piaciuta?